Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Ancora una morte bianca, un lavoratore del porto di Trieste finisce in acqua con il carrello che stava manovrando. I colleghi se ne accorgono dopo 2 ore visionando le telecamere. I sindacati dei portuali entrano subito in sciopero, durerà fino alle 19 di oggi. Il presidente D'Agostino: continueremo a investire affinché questi terribili episodi non accadano più. Entra a Villesse dall'uscita del raccordo autostradale e percorre un tratto di strada in contromano fino a scontrarsi frontalmente con un'altra auto. È morta così un'anziana di Tapogliano, 3 i feriti gravi. Si celebra oggi il giorno del ricordo per non dimenticare la tragedia dell'esodo e delle foibe, iniziative in tutta la regione. Ieri al monumento di Basovizza l'omaggio del presidente del Senato, La Russa. Multa da 1 milione di euro alla società di luce e gas Est Energy che opera a Trieste. L'antitrust ha definito scorretta una comunicazione inviata agli utenti 1 anno e mezzo fa. Siglato a Grado un accordo tra la Protezione Civile e l'Università di Trieste per studiare il fenomeno dell'acqua alta e come prevenirlo. La nostra intervista all'esperto di geofisica. Presentato a Udine il nuovo stabilimento per la produzione di energia elettrica e di biometano della NET, l'azienda che gestisce il ciclo dei rifiuti nel capoluogo friulano. Sanremo e ricordi di chi fu tra i protagonisti della canzone italiana e ora vive in regione, il racconto di Bobby Solo, 12 volte sul palco dell'Ariston. Quando vinsi vennero a chiamarmi al ristorante. Le 7:19, buongiorno da Alessandra Zigaina e Maria Spezia. Vediamo la situazione del meteo. Il cielo è sereno, le temperature registrate alle 6 sono sempre molto basse. A Trieste 1 grado, Gorizia -3, Udine -4,5, Pordenone -6, Forni di Sopra -6, Tolmezzo -8, Piancavallo -9,5, Sappada -12,5, Tarvisio -13,5, Monte Zoncolan -5,5, Monte Lussari -7,5, Lignano 1 grado, Grado -5 decimi di grado. Le previsioni dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale per oggi: cielo sereno con possibile presenza di lievi velature ad alta quota. Sulla costa soffierà bora moderata con possibili raffiche ancora sostenute a Trieste al mattino. Temperature minime piuttosto basse nei fondovalle montani con estese gelate notturne anche in pianura. Sul Tarvisiano sarà possibile la presenza di nubi basse con foschia fondovalle al mattino. Come avete sentito dai titoli, un lavoratore del porto di Trieste è morto ieri pomeriggio dopo essere caduto in acqua all'interno dell'area del Molo Settimo. Era alla guida di un muletto. Circa 2 ore dopo i colleghi si sono accorti della sua assenza e hanno visionato le telecamere che avevano ripreso l'incidente. Il suo corpo senza vita è stato recuperato in fondo al mare dai sommozzatori. Una tragedia senza testimoni in uno dei terminal container più trafficati e moderni, il Molo Settimo di Trieste, con 2 grandi navi all'attracco. Ci sono operazioni in corso. E pomeriggio Paolo Borselli, 58 anni, ai comandi di un carrello sollevatore. Una manovra errata finisce in acqua, nessuno se ne accorge, se non un paio d'ore più tardi, verso le 17, quando lo cercano e non lo trovano e non c'è neppure il muletto. E allora controllano le registrazioni delle telecamere di sorveglianza e vedono la sua retromarcia e l'uomo e il mezzo che finiscono in acqua. Sotto il molo il fondale è a 16 metri. Lo troveranno sul fondo i sommozzatori dei vigili del fuoco, ancora a bordo del sollevatore, annegato. La notizia si diffonde in un lampo nello scalo. Tutte le sigle proclamano lo sciopero immediato per 24 ore. I lavoratori del porto improvvisano un presidio all'ingresso del Molo Settimo. Momenti di forte tensione con i giornalisti. Fatto straziante e inconcepibile, si legge nelle note. Bisogna capire se ci sono state falle nelle procedure di sicurezza. Così il presidente dell'autorità portuale, D'Agostino: non ho parole per dire la frustrazione e lo sconcerto dinanzi a questa morte che pretende da noi di continuare a impegnarci per il futuro. Trieste, Giampaolo Mauro, TGR Friuli Venezia Giulia. E a proposito dell'impegno per il futuro, il presidente dell'autorità portuale Zeno D'Agostino ha scritto in una nota: continueremo a operare e investire affinché simili terribili episodi non si verifichino più. Abbiamo posto il tema del lavoro e della sicurezza al centro del nostro mandato, come testimoniano tanti atti concreti e tanti progetti, ha sottolineato D'Agostino. E ieri sera i sindacati hanno proclamato subito uno sciopero iniziato alle 19. Sentiamo cosa ci ha detto Paolo Peretti, segretario territoriale della FILT CGIL. Non si può pensare di lavorare in porto quando un collega portuale muore, non si può pensare di continuare a lavorare nel porto di Trieste quando viene una cosa di questa gravità. Abbiamo dichiarato uno sciopero di 24 ore in segno di lutto nei confronti di questo lavoratore portuale. C'è da dire che al Molo Settimo, laddove è successo, le operazioni si sono fermate, io credo, subito dopo quanto è accaduto. Che cosa ci dice quanto è accaduto sulla sicurezza del lavoro all'interno del porto? Fare portuale è un lavoro pericoloso, un lavoro che nel quale le persone sono fortemente impegnate, devono essere fortemente formate. Noi abbiamo un sistema di RLS, RLS di sito, che ci pone anche in una posizione d'avanguardia rispetto anche ad altri porti. Siamo attrezzati, diciamo, rispetto a tutte le normative esistenti. E in ogni modo questo ancora non basta, e come dire, l'attenzione deve essere sempre comunque costante sia da parte delle aziende che dei lavoratori. Non è più tempo, si legge in una nota dei sindacati di base, di sacrificare i lavoratori alle dinamiche del risparmio e della compressione del personale. Tutti gli attori del porto devono prenderne atto e operare di conseguenza. Questo incidente, scrive il coordinamento dei lavoratori portuali, chiede la convocazione urgente di un incontro per affrontare e risolvere le numerosissime problematiche di sicurezza presenti nei porti di Trieste e Monfalcone e più volte segnalate. Ancora cronaca, un automobilista 78enne di Tapogliano, Elida Michelutti, è morta ieri mattina alle 11.30 dopo aver invertito improvvisamente il proprio senso di marcia lungo l'autostrada A34 a Villesse. Si è scontrata frontalmente con una macchina con targa serba che procedeva regolarmente nella direzione opposta. Altre 4 persone sono rimaste ferite, sono 3 degli occupanti del veicolo, tutti serbi, a bordo dell'auto che si è scontrata contro quel su cui guidava l'anziana. Si tratta di una coppia, entrambi di 55 anni, che sono stati trasportati con l'elicottero negli ospedali di Udine e Trieste, e un ragazzo di 16 anni trasportato a Trieste con ferite lievi. Nell'auto dell'anziana deceduta c'era un'altra donna di 51 anni, di nazionalità cubana, ora in gravi condizioni all'ospedale di Udine. L'anziana era alla guida di un'utilitaria con cui si era messa in autostrada dall'innesto dei centri commerciali in prossimità della barriera di Villesse, da cui ci si immette solo nella A4, la donna ha improvvisamente invertito il senso di marcia, probabilmente dopo essersi accorta di avere sbagliato direzione. Cambiamo pagina, si celebra oggi il giorno del ricordo, istituito con una legge del 2004, la giornata scelta è il 10 febbraio, che corrisponde alla data in cui venne firmato nel 1947 il Trattato di Parigi, che assegnava alla Jugoslavia l'Istria, il Quarnaro, la città di Zara con la sua provincia e la maggior parte della Venezia Giulia. I primi firmatari della legge furono il triestino Roberto Menia e l'attuale presidente del Senato Ignazio La Russa, che ieri ha fatto visita alla foiba di Basovizza, monumento simbolo delle tragedie che si sono consumate in queste zone nel dopoguerra. Si inginocchia il presidente del Senato Ignazio La Russa davanti al monumento che ricorda le vittime delle foibe e l'esodo dalle terre di Istria, Fiume e Dalmazia. Gesto e pensiero, scrive La Russa, quale umile atto di doveroso omaggio a chi innocente perse la vita nelle foibe titine. La visita a Basovizza, a Trieste, alla vigilia del giorno del ricordo istituito con legge nel 2004, motivo di crescita di tutta la comunità nazionale, secondo La Russa. Ora si può parlare di una memoria condivisa o quantomeno di un percorso che già in atto, ha detto il Presidente del Senato, ricordando la visita congiunta 3 anni fa dei presidenti italiano e sloveno Mattarella e Pacor. Italia, Slovenia e Croazia oggi sono popoli amici, diversamente dal passato. In queste foibe ci sono vittime innocenti, militari per motivi di ideologia, ma più semplicemente la verità è perché erano italiani. Questa è la vera causa che scatenò l'odio titino, l'odio dei comunisti che avevano, per carità, vinto la guerra, avevano motivi di revanchismo, tutto quello che volete, ma che scatenarono qui un odio bestiale. Credo che non ci siano molti dubbi sulla causa dei lunghi silenzi, né quale sia stato il momento in cui questi silenzi sono stati interrotti, ha aggiunto la russa, e sulla richiesta di revoca dell'onorificenza del Cavalierato della Repubblica conferita nel 1969 dal presidente Saragat al maresciallo Tito, il presidente del Senato ha detto che non spetta a lui decidere, ma fosse per lui l'avrebbe già revocata. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. E sentiamo ora dallo storico e scrittore Gianni Oliva qual è l'attualità di questa ricorrenza. A quasi 20 anni dall'istituzione del giorno del ricordo, possiamo dire che è servita a restituire una memoria poco conosciuta? Assolutamente, è servita soprattutto perché si tratta di una memoria che è stata conservata per decenni soltanto nell'ambito della frontiera adriatica. E per tutti coloro che stavano nelle altre parti d'Italia, quelli come me che stavano in Piemonte o chi stava in Toscana piuttosto che in Sicilia, era una memoria negata, ignorata, perché non se ne parlava, non ne parlava nei libri di testo, non se ne parlava nel dibattito pubblico. E la giornata del ricordo non ha risolto i problemi, però ha permesso intanto di sdoganare il tema e di dare l'opportunità almeno una volta l'anno ai mass media, alle scuole, alle amministrazioni, alle associazioni culturali di parlarne. L'obiettivo di una memoria rispettosa è ancora lontano da raggiungere. Lei è ottimista? Ottimista abbastanza, nel senso che, guardi, le memorie sono individuali, nel senso che ogni popolo, ogni comunità ha la sua memoria. E quindi immagino che per coloro che sono nati sul confine nordorientale dell'Italia, la memoria di quel periodo sarà sempre la memoria delle foibe dell'esodo. E per coloro che sono nati in Slovenia o in Croazia, probabilmente sarà la memoria delle violenze commesse dal Roat e dagli eserciti d'occupazione italiano nel 41-43. Da questo punto di vista non si può parlare di un obiettivo di memoria condivisa, ma si può parlare di obiettivo di memoria rispettosa o riconosciuta, vale a dire ognuno conserva la propria ma riconosce anche i diritti di quella dell'altra, che è poi ciò che hanno fatto il presidente Mattarella e il presidente Pahor quando sono andati insieme a ricordare la foiba di Basovizza, ma anche la lapide che ricorda i 4 antifascisti sloveni fucilati durante il ventennio. Paolo Roncoletta, TGR Friuli Venezia Giulia. Sono le 7.30, segnaliamo ora i diversi appuntamenti previsti oggi in regione per il giorno del ricordo. A Trieste è in programma la cerimonia commemorativa al Monumento Nazionale della Foiba di Basovizza alle 10.30, alla presenza del sindaco Roberto Di Piazza e dei rappresentanti del Comitato per i Martiri delle Foibe e delle associazioni. L'evento sarà preceduto da un omaggio alla foiba di Monrupino alle 9.30, dove sarà deposta una corona d'alloro dai rappresentanti della regione Friuli Venezia Giulia, della prefettura e del comune di Trieste. A Gorizia alle 16.30 il questore Paolo Gropuzzo deporrà una corona d'alloro ai piedi della lapide all'ingresso della questura in memoria del suo personale deportato nel maggio del 1945 e barbaramente trucidato. Gropuzzo ricorderà alle 16 nel Parco della Rimembranza anche il sacrificio di Giovanni Palatucci, di cui ricorre l'anniversario della morte, già questore di Fiume, deceduto nel campo di concentramento di Dachau nel 1945, medaglia d'oro al merito civile e riconosciuto giusto tra le nazioni per aver salvato dal genocidio molti ebrei. A Udine in programma una mattinata di approfondimento storico con gli studenti dell'Istituto Cecilia De Ganutti, a cui seguirà la consegna di un'onorificenza in memoria di Giacomo Giovanni Cerno al Teatro Palamostra alle 9. La cerimonia ufficiale è prevista al Parco Martiri delle Foibe alle 11.30 presso il cippo commemorativo a cui presenzieranno le autorità e il gonfalone della città. Si intitola Il giorno del ricordo, l'appuntamento che sarà condotto da Bruna Zuccolin, presidente Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia di Udine, e Renata Capria D'Aronco, presidente Club UNESCO Udine, che si terrà a Palazzo Florio alle 16. Infine il libro Stragi Foibe di Enrico Folisi sarà presentato alla presenza dell'autore alla Loggia del Lionello in Sala Iace alle 17.30. Il prefetto di Pordenone, Domenico Lione, consegnerà alle 10 la medaglia e il diploma conferiti dal Presidente della Repubblica a Giuseppina Bertocco in memoria del padre Augusto, carabiniere nella caserma di Aisovizza, vittima delle foibe nel 43, a riconoscimento del sacrificio offerto alla patria. Il presidente dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, Silvano Varin, deporrà una corona d'alloro nel cortile dell'ex provincia in corso Garibaldi. A seguire, nella biblioteca civica sarà deposta una rosa nel chiostro intitolato a Norma Cossetto. Cambiamo pagina. È stato presentato ieri a Udine il nuovo stabilimento per la produzione di energia elettrica e di biometano della NET, l'azienda che gestisce il ciclo dei rifiuti nel capoluogo friulano. Sarà operativo a giugno il nuovo impianto di digestione anaerobica per la produzione di biogas e conseguentemente energia elettrica e biometano, presentato nel corso dell'inaugurazione della sede della divisione operativa di NET nel sito storico di Via Gonars a Udine. Alimentato da 35.000 tonnellate anno di frazione organica di rifiuti solidi urbani, 19.000 tonnellate anno di frazione organica putrescente e 12.500 tonnellate anno di rifiuto verde, che porterà a un miglioramento complessivo dell'attività di trattamento dei rifiuti. Giulia Filippini, ANA Energia. È un processo complesso che consente di recuperare al 100% l'organico contenuto nell'umido della raccolta differenziata delle case di ognuno di noi e trasformarlo quindi in ricchezza sotto forma di metano. Metano per la rete del gas, come metano per l'autotrazione, un processo a 360 gradi, perché anche il digestato in uscita dai digestori anaerobici verrà recuperato al fine di produrre compost. Intanto sono stati pubblicati i dati sui rifiuti urbani in Friuli Venezia Giulia relativi al primo trimestre del 2022. Secondo l'analisi dell'ARPA del Friuli Venezia Giulia, la raccolta differenziata si attesta al 64,8%. Il primato spetta a Pordenone, che registra un 82,8% di raccolta differenziata. Gorizia si attesta al 73,94%, mentre Udine si ferma al 68,5%. Decisamente rimandata a Trieste, che si colloca nella parte bassa della graduatoria, con un dato che non arriva al 40%. Luisa De Marco, presidente NET. Siamo comunque sopra la media nazionale e per questo motivo la NET sta organizzando una massiccia campagna di comunicazione, perché la raccolta differenziata funziona bene sì se le società che gestiscono riescono a dare un servizio efficiente, ma serve ed è indispensabile il senso civico di ogni cittadino. Udine, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Maxi sanzione da 1 milione di euro alla società di luce e gas Est Energy che opera a Trieste. L'antitrust ha definito scorretta una comunicazione che aveva inviato a decine di migliaia di utenti 1 anno e mezzo fa. Gentile cliente, buone notizie. Avendo lei sottoscritto una delle nostre offerte a prezzo fisso, la sua bolletta non risentirà dei rincari di energia elettrica e gas. Per questa comunicazione del settembre 2021, inviata per errore anche a 33.000 utenti a cui era già scaduta l'offerta fissa e che stavano già subendo le oscillazioni del mercato variabile, l'antitrust ha comminato una sanzione di 1 milione di euro a Est Energy, operatore gas e luce di Trieste, parte del gruppo ERA. Comunicazione rettificata solo dopo 7 mesi, nonostante la società fosse consapevole dell'errore, definita scorretta nella delibera dell'autorità garante della concorrenza, attivatasi dopo le segnalazioni di Federconsumatori e Adiconsum. Erika Cuccu, presidente di Federconsumatori Udine. Di fatto il consumatore non ha potuto fare una scelta consapevole, si è fidato di questa comunicazione e pertanto non ha provveduto a fare una scelta o di un altro fornitore o anche di un altro di un'altra tipologia di contratto all'interno della stessa azienda, con ciò subendo chiaramente tutti i rincari del periodo. Ennio Toniutti, vicepresidente di Adiconsum FVG. Spero che serva come esperienza, specialmente per tutte le aziende che erogano servizi di pubblica utilità, a considerare l'utente come cliente e non come suddito, e quindi a cercare di porre un rapporto paritario in cui ci sia uno scambio corretto, e riconoscere anche all'Associazione dei Consumatori quella volontà di dare una mano. L'azienda intende impugnare il provvedimento al TAR, ritenendo di aver agito correttamente. La sanzione è stata ridotta da 3 milioni e mezzo a 1 milione, scrive in una nota, anche in considerazione delle iniziative attuate nei confronti dei clienti, come il messaggio di rettifica nelle bollette di maggio 2022. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia. È stato siglato ieri pomeriggio a Grado un accordo di collaborazione tra la Protezione Civile e l'Università di Trieste. 360.000 euro le risorse che la Regione mette in campo per studiare il fenomeno delle mareggiate e dell'acqua alta e decidere future azioni di prevenzione. Al nostro microfono Giorgio Fontolan, professore di geofisica dell'Università di Trieste, a capo del progetto, spiega la gravità degli ultimi eventi calamitosi. Secondo le previsioni, che cosa potrebbe succedere di qui ai prossimi 80 anni? Ma i colleghi dicono che nella migliore delle ipotesi potrebbe alzarsi il livello del mare al 2100 di 40 cm in media o pessimisticamente di 80 cm in media. Questo significa che ad esempio se alziamo di 80 cm il mare, una città come Grado con la marea normale con 40 cm in più o in meno potrebbe essere inondata una volta al giorno tranquillamente. Quindi è chiaro che dobbiamo, come dire, allertarci e predisporre qualcosa per, insomma, affrontare anche questi temi, magari non nello scenario più pessimistico, ma in ogni caso tenendo conto anche di questi aspetti. Chiaramente voi avete 3 anni di tempo di lavoro, però tutti vogliono le soluzioni subito. Tra le soluzioni c'è chi parla di MOSE, è possibile qui? Ma credo che forse il dimensionamento del MOSE per una realtà territoriale come la nostra sia un po' eccessivo e anche troppo faraonico. Penso che si possa parlare più propriamente magari di un baby MOSE e invito la gente magari ad andarlo a vedere quello che hanno realizzato per esempio a Chioggia, che è una paratoia che si alza dal mare, dal fondo del mare, per bloccare i canali e l'ingressione del mare nelle realtà urbane, diciamo, un po' meno esposte come Venezia, che è ovviamente circondata totalmente dalla laguna. In ballo ci sono diverse priorità. Certo, con questo protocollo, con questa azione andremo ad analizzare tutto quello che è legato all'uomo, dai beni, proprio dalle case alle realtà urbane, alle realtà economiche, come ad esempio le realtà turistiche costiere, quindi non escludendo nessuna delle realtà che proprio insistono sul nostro territorio. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. La politica Azione, Italia Viva e Più Europa insieme a Regione Futura presenteranno una lista unitaria dell'area liberal democratica per le prossime elezioni regionali del 2 e 3 aprile, candidando Alessandro Maran alla presidenza della Regione. Al via dunque la raccolta delle firme necessarie alla presentazione della lista, con appuntamento a Trieste al Caffè San Marco dalle 17 alle 19. Zero morti sul lavoro e l'iniziativa inclusa nel quadro di azioni previste nell'accordo territoriale sottoscritto nel 2021 da Confindustria Alto Adriatico, inteso a eliminare il fenomeno delle morti bianche agendo su prevenzione e sicurezza. In programma una presentazione delle iniziative tecnologiche in chiave prevenzione. Poi in esposizione nella dimostrazione pratica, qui interverranno il prefetto di Pordenone, Domenico Lione, le rappresentanze sindacali e il presidente Confindustria Alto Adriatico, Michelangelo Agrusti, a Poincicco di Zoppola, alla Vecara, in via Pordenone, alle 11.30. Oggi a Grado il Consiglio Comunale si occuperà della situazione della casa di riposo Casa Serena a partire dalle 17. Si darà parola e si sentiranno le testimonianze dei parenti degli ospiti. Dopo gli episodi di maltrattamenti a danni degli anziani emersi lo scorso maggio, a cui era seguita la sostituzione della cooperativa gerente, e dopo un sospetto episodio di maltrattamento lo scorso agosto da parte di un'operatrice forse ubriaca, a detta del comitato parenti restano le problematiche di carenza di personale. Proclamato per oggi uno sciopero di 8 ore dei lavoratori della Tirso, sede mugesana della multinazionale del settore tessile, in cui lunedì scorso non sono stati rinnovati i contratti di 47 lavoratori interinali. Organizzato poi un presidio fuori dai cancelli aziendali, fissato per le 12.30. Le parti sociali, nella nota diffusa per la comunicazione dell'astensione dal lavoro, hanno denunciato la mancanza di certezze per il futuro dello stabilimento e dei posti di lavoro dei 190 lavoratori a tempo indeterminato. I sindacati sottolineano che gli elevati costi energetici, i cali della produzione, la mancanza di un piano industriale di lungo termine fanno temere come gli esuberi dei somministrati possano preludere alla perdita di occupazione per tutti gli altri lavoratori. Previsto nel pomeriggio un incontro tra sindacati e regioni in cui le parti sociali chiederanno tutela. Propone formazione sul ruolo dei vaccini nella tutela della salute pubblica ed è destinato agli studenti del quarto e quinto anno delle scuole superiori l'Univax Day 2023, organizzato dall'Università di Udine con la Società Italiana di Immunologia. L'evento sarà trasmesso in diretta streaming con registrazione entro le 8:30 sul link Univax Day del sito dell'Università di Udine. Il primo intervento è previsto alle 9:30 con l'introduzione di Carlo Pucillo, ordinario di patologia generale e immunologia Udine, che interverrà sulla disinformazione sui vaccini. Voltiamo pagina, giorni di feste di musica a Sanremo per il festival. Abbiamo ricordato le edizioni passate con un veterano del concorso Canoro che abita in regione. Il suo Sanremo era tutto canzoni e meno spettacolo. Sul palco dell'Ariston Bobby Solo è salito 12 volte e sono 12 edizioni fitte di ricordi. A partire dalla notizia della vittoria del 65, che lo sorprese mentre era a cena al ristorante. Arrivano due signori della Rai un po' preoccupati. Bobby, tu sei un pazzo. Che cosa ho fatto? Bobby, tu hai vinto. Io ho vinto. E allora sono corso di nuovo sul palco, mi sono rimesso lo smoking e Mike Buongiorno mi accoglie e mi fa: caro Bobby, adesso che hai vinto, che cosa vuoi dire al tuo pubblico? E io ho detto timidamente: grazie, un vero cowboy è sempre di poche parole. Solo l'anno prima il debutto fra giganti della musica di allora. Quando vidi questi fenomeni che controllavano la scena sul palcoscenico, dissi a me stesso: io sono una nullità. E arriva una telecamera, non come quella che ci sta riprendendo, non era una telecamera, era un condominio. Quando ho visto questo mostro che si avvicinava, invece di fare da da una la, che ho fatto e non usciva fiato, quindi decisero di farmi cantare in playback. Quasi 60 anni dopo, tante cose sono cambiate, ma... Sanremo è sempre Sanremo. Diciamo che negli anni 50, quando è iniziato Nilla Pizzi con Grazie dei Fior, o quando Modugno cantava in bianco e nero Ciao ciao bambina e volare, era soprattutto uno spettacolo di canzoni. Poi chiaramente Sanremo si è evoluto e si è evoluto, è diventato uno spettacolo di varietà. E mentre da Aviano, dove è di casa, lavora a un album di gospel e a uno di blues, ma partecipa anche a Domenica In con Mara Venier, non esclude del tutto il ritorno all'Ariston. Tornerebbe a Sanremo? Sì, sì, sì, ma io lascio lo spazio ai giovani. Sanremo è assolutamente adatto proprio ai giovani, perché è un trampolino importantissimo che ai nostri tempi ti portava in Europa con l'Eurovisione. Oggi ti porta su tutto il pianeta. Aviano, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. E ora parliamo di calcio. L'Udinese è la quarta società calcistica più sostenibile al mondo dal punto di vista ambientale, sociale e di governance. Calcio e sostenibilità con gli occhi dei tifosi, binomio spesso in contrapposizione, ma per alcuni club può essere realtà. In particolare per Udinese e Milan, emerge dallo studio Brand Finance Football Sustainability Perception Index, fatto sulla base di un sondaggio tra i sostenitori dei principali paesi nel 2022. È il Liverpool il brand percepito come più sostenibile tra le società dei cinque principali campionati europei. Il club inglese ha ottenuto il miglior punteggio nei parametri ambiente, sociale e governance, dietro al Betis secondo e Real Madrid terzo, l'Udinese. Il club friulano è al quarto posto grazie all'adesione al programma delle Nazioni Unite Sports for Climate Action e perché il suo stadio Gioiello è uno dei primi a emissioni zero in Europa, capace cioè di rifornirsi esclusivamente con energia proveniente da fonti rinnovabili. All'ottavo posto il Milan, mentre la percezione dei tifosi della Juventus prima dell'inchiesta sulle plusvalenze poneva il club al 14° posto. Udine, Sebastiano Franco, TGR Friuli Venezia Giulia. Italia campione d'Europa di ciclismo nell'inseguimento a squadre. Nel quartetto azzurro ci sono i friulani Jonathan Milan e Manlio Moro. Nella finale di Grenchen in Svizzera contro la Gran Bretagna l'Italia ha segnato il tempo di 3:47.667, record della pista. Manlio Moro, al primo allora importante, ha lodato i compagni: sono stati fantastici, mi hanno aiutato a restare tranquillo, abbiamo commesso qualche imprecisione ma siamo andati veramente forte, il mio primo europeo, una gioia indescrivibile, ha detto Moro. Biathlon, ai campionati mondiali di Oberhof in Germania, torna in pista la sappadina Lisa Vitozzi, impegnata nella 7,5 km sprint, inizio alle 14:30. Alle 7.47 cominciamo la rassegna stampa, cominciamo dal piccolo di Trieste. Il titolo centrale è per l'incidente al Molo Settimo. Cade in mare con il muletto e annega al Molo Settimo. La vittima è Paolo Borselli, 58 anni. Proclamato subito lo sciopero dei lavoratori. Sotto, colleghi sotto shock, anche il figlio lavora nello scalo. Nella parte alta l'altra notizia di cronaca, fa inversione in autostrada e muore accanto il presidente del Senato La Russa in ginocchio davanti alla foiba. Sotto il piccolo riporta la richiesta del ministro della cultura San Giuliano, e cioè quella che il Festival di Sanremo ricordi le vittime delle foibe. Sempre a proposito del giorno del ricordo, un altro titolo, le 12 musiciste del Tartini oggi in concerto al Quirinale. Sotto il richiamo dedicato alle donne della scienza, così Trieste attrae le donne di talento. E poi il sogno Maneskin allo Stadio Rocco. E il richiamo ad un articolo che ci fa sapere che è passata in comune a Trieste una delibera che stanzia 268.000 euro per un grande concerto rock il 16 luglio. Pare che siano i Maneskin. I due titoli di cronaca sul piccolo di Gorizia sulla prima pagina sono invertiti, quello centrale è sull'incidente di Villesse, e sotto troviamo un virgolettato attribuito ai figli della donna morta in contromano. Non sappiamo cosa ci facesse lì nostra madre e non sappiamo neanche con chi stesse viaggiando né dove stesse andando. Le 500.000 persone attese a Udine alla dunata degli alpini aprono il Messaggero Veneto. Spazio poi a un titolo sulle motivazioni della Cassazione depositate ieri per il rigetto del ricorso della Procura di Roma che chiedeva il proseguimento del processo per la morte di Giulio Regeni a carico di 4 imputati egiziani finora non raggiunti dalla notifica di processo. Motivazioni della Cassazione basate appunto sulle regole della procedura penale che esigono la notifica di processo agli imputati. Altro titolo, quello sulla riapertura delle indagini sul bombarolo seriale Una Bomber, che non consentirà risarcimenti per 24 attentati su 29 perché già caduti in prescrizione, servizio che sull'edizione di Pordenone è fotonotizia. Nella fotonotizia dell'edizione di Udine c'è il mortale di Gorizia. Altro articolo, quello sulla ricerca personale per 100 addetti stagionali da impiegare nei supermercati Despar di Grado, Lignano e Tarvisio in calendario il 2 marzo. Capocronaca dell'edizione di Udine, il patto anti-merendine firmato dalle famiglie delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Capocronaca dell'edizione di Pordenone, la chiusura del cantiere della Circonvallazione Sud per 40 milioni di euro e 12 anni di lavori, ancora non fissata l'apertura della strada. Vediamo il Gazzettino, cominciamo dall'edizione Friuli, il titolo principale, inversione in A34, muore una donna. Sotto la fotonotizia è per la dunata degli alpini, adunata, scatta la fase operativa. Accanto lista Fedriga al completo, tutti i nomi del presidente. E ancora bonus 110, bloccato un cantiere su 5, c'è lo stop ai crediti. Il rischio che si generi un effetto valanga è ormai molto concreto. Gli addetti non riusciamo più a garantire lo sconto in fattura. E poi a proposito di extracomunitarie politiche per la casa, bonus affitti, il tribunale bacchetta il comune, che sarebbe il comune di Udine. E poi una notizia per gli appassionati dei Deep Purple, suoneranno a Pordenone al Blues Festival il 30 giugno. A fianco per lo sport Collovati avverte l'Udinese, 6 al bivio. Dal Gazzettino di Pordenone l'apertura, bonus, bloccato un cantiere su 5, centinaia di opere in tutto il Friuli rischiano di saltare perché le banche non comprano più i crediti. Accanto nozze in chiesa, le crisi aumentano dal 21° anno. E poi i Coma Cose a Sanremo, ci sposiamo, e l'annuncio dei due cantanti, lei è di Pordenone, durante una conferenza stampa legata al festival. Giorno del ricordo, parlano i testimoni, il titolo dell'articolo firmato da Pierluigi Sabatti, presente tra le pagine della cultura del quotidiano nazionale La Repubblica. Due pagine sono dedicate alla ricorrenza del giorno del ricordo anche sul quotidiano La Stampa, con la testimonianza della scrittrice Silvia Dai Prae sull'uccisione del bisnonno e la pagina di storia di Gianni Oliva. E a proposito del giorno del ricordo, su tutti i principali quotidiani tiene banco la richiesta del ministro della cultura San Giuliano di ricordare le foibe nella puntata di stasera del Festival di Sanremo. In tema citiamo solo il titolo del quotidiano Corriere della Sera, il pressing sull'Ariston, omaggiate anche le foibe. E ancora a proposito del giorno del ricordo, vediamo altri appuntamenti previsti. Cominciamo da uno che ci riguarda ma che si tiene a Roma, il Conservatorio di Musica Tartini suonerà nel Palazzo del Quirinale per le celebrazioni ufficiali del giorno del ricordo 2023 alla presenza del Presidente Mattarella. L'appuntamento con la cerimonia istituzionale è alle 11 e l'evento sarà trasmesso in diretta su Rai 1. Segnaliamo ora alcuni eventi in calendario in regione. Bruno Bonetti, vicepresidente dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia Udine, condurrà la conferenza Dalmazia 1850-1950 dedicata alle vicende della comunità italiana tra 800 e 900. Con l'avvicendamento delle amministrazioni locali croate a quelle italiane a fine 800, il primo esodo del 1920 e le tragiche vicende della fine di Spalato e Zara italiane nel 1940. 3:44, appuntamento a Casarsa della Delizia, Palazzo Burovic alle 20:30. Si intitola Esodi, confini, frontiere della storia, l'incontro invece organizzato a Staranzano nel municipio alle ore 18 con Giulio Mellinato, docente all'Università di Milano Bicocca, e Andrea Zannini del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Udine. La soprano Lina Mitrevska e Carmen Vicente si esibiranno in un concerto per voce e pianoforte con la prima esecuzione della partitura per strada a Trieste al Conservatorio Tartini alle 20:30 con ingresso libero. Le 21 tavole che provengono dal Comitato Familiari delle Vittime Giuliane, Istriane, Fiumane e Dalmate saranno esposte da oggi fino al 25 febbraio a Pordenone nel chiostro della Biblioteca Civica. Il film La città dolente di Mario Bonnard, che racconta il dolore dell'esodo degli italiani dall'Istria, sarà proiettato a Pordenone al Cinema Zero alle 20:45. La proiezione sarà introdotta da Paolo D'Andrea. Sullo schermo le riprese girate nei giorni dell'esodo di Pola. Un altro film, la pellicola di Luigi Zampa, Cuori senza frontiere del 1950 con Gina Lollobrigida e Raf Vallone, sarà proiettato per gli studenti di terza media e quinta superiore delle scuole gemonesi dalla Cineteca del Friuli alle 9. Nel film la vicenda dei protagonisti si intreccia con le vicissitudini di un paesino del Carso Goriziano che nel dopoguerra si ritrova tagliato a metà da una linea bianca che segna il nuovo confine tra Italia e Jugoslavia. Il film invece Rosso Istria, Red Land, sarà proiettato per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado a Pordenone a Cinema Zero alle 11. Finisce qui questa edizione del giornale radio regionale. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo la cerimonia che celebra la giornata del ricordo, cui interverrà il Presidente della Repubblica alle 12 circa. L'appuntamento con Un tranquillo weekend da paura. I programmi regionali torneranno poi alle 13:29. Da Alessandra Zigaina e Maria Spezia, grazie per averci seguito, grazie a Walter Vidonis per aver curato la parte tecnica e a Laura Sarasini per aver collaborato in redazione. Ancora una buona giornata a tutti. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.